Benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati sugli 87.9, sono le 15.02, è giovedì e inizia Tracce di Cinema. Oggi una puntata molto bella. Abbiamo voluto scommettere, eravamo poco preparati e in ritardo e allora abbiamo puntato in alto. Sì, abbiamo puntato in alto, io ho lavorato fino a tarda notte, non so bene che cosa ho combinato, però qualcosa ho combinato, speriamo che sia... insomma adeguato a questa a livello di questa radio, mi auguro di non fare brutta figura. Comunque insomma il nostro, come dire, il soggetto, sì, il regista che insomma di cui analizzeremo la filmografia è Terrence Malick, classe 1943, americano. Ne parleremo, parleremo di lui, di questo regista, magari in modo più dettagliato durante la conversazione con il nostro ospite che oggi è... L'abbiamo preso in corsa, penso. Sì. Eravamo talmente in ritardo che poco fa a Visionario ho parlato con Maurizio Di Rienzo che era mio ospite, ho detto ma senti un po'... Bene, bene, e quindi, sempre disponibile, sì, e carino nei nostri confronti, nei confronti della radio. Lo ringraziamo già in anticipo per insomma per visto che ci darà il suo contributo. E analizzeremo, come stavo accennando, tutta la filmografia di Malick, che non è enorme, anche perché ha fatto un film ogni 25 anni. Quindi. Sì, invece ultimamente si sta dando molto da fare. Però, visto come sta andando l'ultima sua produzione, cioè molto legata alle immagini, a una maestosità dell'immagine, invece di parlarne tanto io farei lo stesso discorso con la musica e quindi manderei molta della sua musica. Sì, sì, molta della sua musica, però c'è tanto da dire anche dei suoi film, tante cose, tante curiosità che ho trovato in giro, anche a proposito di questa cosa della fotografia, poi ne parliamo meglio. Quindi iniziamo subito con alcune tracce tratte dalla Rabbia Giovane del 1973. Gassenhauer, giusto? Sì, sì, sì, sì. Karl Orff. Non la mettiamo questa sul cellulare. No, direi di no, anche se Karl Orff, insomma, un grande compositore tedesco, nato nel 1895, morto nel 1982, oltre ad essere un grande compositore, conosciuto proprio per le sue composizioni più famose, sono state quelle di Carmina Burana, con cui è diventato famosissimo, fu un importante anche didatta, perché si occupò di pedagogia e insegnamento, influenzando profondamente i metodi dell'educazione musicale. E di lui si è dibattuto a lungo, perché su di lui si è dibattuto a lungo a proposito della sua adesione all'ideologia nazista. Infatti rispose all'invito fatto ai compositori tedeschi da parte del regime, di cui però disse di essersi, insomma, successivamente pentito, però insomma lui rispose all'invito e partecipò, e disse che invece fu sempre, insomma, contro il regime. Era amico di Kurt Huber, uno dei fondatori del movimento di resistenza Die Weiße Rose, la rosa bianca, condannato a morte e ucciso dai nazisti nel 1943, e Orff appunto dichiarò di essere stato un membro del gruppo e di aver partecipato alla resistenza. Tuttavia non ci sono prove del suo coinvolgimento, ad esclusione delle sue stesse dichiarazioni, quindi insomma boh. E invece di questo film bellissimo, debutta alla regia di il nostro Malik, ha vinto il Festival di San Sebastian. Era una storia ispirata a un fatto di cronaca vera, degli anni di fatto di cronaca nera effettivamente successo negli anni 50, una serie di omicidi in Nebraska e in Wyoming commessi da una coppia di giovani, Charles Starwaker e Caryl Ann Fugate. E il dizionario Mereghetti, che io leggo spesso, il nostro Paolo Mereghetti, sì, l'abbiamo avuto pure in trasmissione, come no, sì. E potevamo chiamare oggi, non ci abbiamo pensato. Insomma, gli attribuisce il massimo voto possibile, uno dei film più insoliti e preziosi del cinema americano, ha scritto nel suo dizionario. Proprio in questo film si intravedono già gli elementi peculiari di questo regista, quelli stilistici intendo, sì, che sono, non so, la voce fuori campo, le musiche che sono sempre molto suggestive, un senso di sospensione rispetto alla narrazione e proprio gli accadimenti degli eventi che avvengono nel film, da cui il regista è sempre molto distaccato nel narrarli. E poi la natura, Fede, no? Queste immagini, io ricordo queste immagini macroscopiche degli insetti, oppure l'attenzione quasi, insomma, documentaristica nei riguardi proprio della natura, degli alberi, bello, molto bello, dell'erba. Bruce Springsteen ha tratto ispirazione da questo film per incidere il singolo Nebraska, lo sapevi? No, vedi? È così. Sentiamo un altro pezzo? Vai. Game. call you a lover boy. Come here, lover boy. And if he doesn't answer? Oh, lover boy. And if he still doesn't answer? I simply say, Mickey and Sylvia, Love is Strange. La registrazione non era un granché, ma è anche vero che questo è un brano molto antico, quindi 1951. Sì, sì. Come mi facevi notare, abbiamo dimenticato di dire che il pezzo precedente, il primo col quale abbiamo aperto la trasmissione, di Karl Orff Gassenhauer, anche se non è molto orecchiabile, però è stato utilizzato in tanti altri film, da Forrester a Monster, dal documentario di Michael Moore Capitalism and Love Story, fino ai Simpson, passando anche per Una vita al massimo di Tony Scott. Sì, invece di questo brano, appunto, del 1951, scritto da Bob Diddle, che si faceva chiamare all'epoca Ethel Smith, fu registrato appunto da Bo e anche da Buddy Holly, e venne portato a successo da questo duo R&B, Mickey e Silva. La canzone è tra le tracce suonate anche nella colonna sonora del film Dirty Dancing e in Casino di Martin Scorsese, e anche nella telefilm, si dice così, telefilm, no? Non si dice più telefilm, serie si dice. Beh, erano telefilm. Sì, giusto. È vero, non si usa più, però erano telefilm. Io sono antica. I Soprano. Di Sylvia Robinson mi piaceva raccontarvi che è una delle voci dell'R&B moderno e fondatrice della Sugar Hill Records, è una cantante che divenne famosa presso il grande pubblico nel 1973 grazie a una canzone dal titolo Pillow Talk, e poi, terminata la carriera davanti al microfono, insieme al marito Joy Robinson, diede vita alla Sugar Hill Records, che fu la prima etichetta a portare, pensate, nel 1979 un gruppo rap, gli Sugar Hill Gang, al successo nelle classifiche statunitensi con Rapper's Delight. Conosciuta anche come la madre dell'hip hop, Sylvia Robinson ha valorizzato un altro colosso di questo genere musicale, Grandmaster Flash. Infatti fu lei a mettere per prima sotto contratto i Furious Five, e Love is Strange nel 1956 vendette più di 1 milione di copie. Allora, passiamo a un altro film, al secondo, I giorni del cielo, dove c'è anche il contributo musicale di Ennio Morricone. Sì. Come eravamo rimasti? Abbiamo diverse opzioni, però di Morricone un pezzo lo volevamo, sì, sicuramente proporre. Direi di iniziare con lui, sì. Quale? The Chase? The Chase, eravamo che è un po' più breve. Ok, The Chase, Ennio Morricone e I giorni del cielo. Thank you. The Chase, Ennio Morricone, I giorni del cielo, Terrence Malick. Sì, giorni del cielo 1978. A proposito di quello che dicevi tu prima della fotografia di Malick, questo film è stato definito il film a colori con la migliore fotografia mai uscito sugli schermi. Pensa un po'. Ah. Mi pare che ha vinto pure un Oscar per la fotografia, fammi vedere. Sì. Controlliamo. Premio Oscar 1971, la migliore fotografia a Nestor Almendros. Il film però non ha avuto un grande successo commerciale, il budget era di 3 milioni di dollari e la pellicola ne incassò soltanto 3 milioni e mezzo, poi fu rivalutato e considerato un successo cinematografico, diciamo, successivamente alla sua uscita. Ma ormai le cose erano fatte. A proposito sempre della grande cura che ha Malick nel girare i film, per girarli appunto con grande cura si accosta, lavora anche con degli artigiani straordinari come Nestor Almendros in questo caso. Questo film ha la particolarità di essere stato girato solo, Federico, tutte le scene sono state girate o poco dopo l'alba o poco prima del tramonto, perché proprio Malick voleva fotografare un cielo bianco senza che il sole apparisse mai. E poi ci sono diverse cose buffe, perché proprio Malick è proprio un genio. Io non sono una grande amante di questo genere di cinema, perché mi piace un cinema che insomma si può andare a vedere senza dizionario, ecco. però è certamente un grande tecnico, un grande regista, e c'è una scena molto complessa che è la scena delle cavallette, Federico, che salgono verso il cielo. Mm-hmm. Ed è stata girata al contrario, cioè c'erano degli uomini della troupe su un elicottero che tiravano dei gusci di arachidi verso il basso e le persone che camminavano, gli attori camminavano all'indietro, capito? È pazzesco. E ci mise soltanto 2 anni Malick a terminare l'editing di questo film, no? Tanto per parlare proprio di, per continuare a parlare di quanto questo regista abbia a cuore e questi lavori che insomma che ha seguito insomma nella sua carriera, ecco. Sono proprio delle vere e proprie opere d'arte questi film di Malick, non sono semplicemente dei film, ecco. Thank you. Carnival of the Animals con The Aquarium, I giorni del cielo, il film di Terrence Malick. Celeberrimo pezzo composto da Camille Saint-Saëns, però suonato in questo caso da Ennio Morricone, e accompagna i titoli di testa di questo film e poi la stessa composizione poi ritorna durante il film con alcune variazioni sempre concepite da Ennio Morricone, che il quale, come l'abbiamo detto, che ha scritto la maggior parte della colonna sonora? Sì, l'abbiamo detto, sì. Non mi ricordo, mi sa di no. Beh, insomma, ha scritto la maggior parte della colonna sonora di questo film, escluso i brani Enderlin e mi pare Swamp Dance, mi pare questi due. Continuiamo con un altro film, Fede? Sì, passiamo al film, diciamo, della seconda stagione, almeno per quanto riguarda il pubblico italiano, per Terrence Malick, ma anche un grande successo internazionale, La sottile linea rossa. Allora, qui abbiamo quattro brani a disposizione. Io direi, visto che non ci ricordiamo quelli che abbiamo preferito, andiamo saltellando il primo e il terzo, forse metterei. Quindi cominciamo con Hair. Dalla colonna sonora del film La sottile linea rossa, questa era la traccia dal titolo Air. Hans Zimmer è l'autore della colonna sonora. Sto vedendo, credo almeno una decina colonne di nomination all'Oscar per la miglior colonna sonora, anche una vinta con il Re Leone. Sì. Hans Zimmer, io lo ricordavo per il Gladiatore, ma insomma sono una marea i film. Sì, da Thelma e Louise. Sì. La prima nomination credo che sia stata del 1988 per Rain Man, L'uomo della pioggia. Sì, bravo, bravissimo Zimmer. E anche queste, le tracce di questa colonna sonora, che voglio dire, non sono proprio, diciamo, orecchiabilissime, però hanno una profondità, un'intensità, no Fede? E arriva fino a Interstellar, la più recente nomination. Ne ha composte veramente tantissime. Di questo film, Sottile linea rossa, The Thin Red Line, 1998, sempre per la regia di Terrence Malick, vincitore dell'Orso d'Oro al Festival del Cinema di Berlino nel 99, quasi 3 ore di film, un cast ricchissimo: John Travolta, Sean Penn, Nick Nolte, Adrian Brody, John Cusack, George Clooney, John Savage, e solo 2 donne all'interno del film: Miranda Otto nella parte di Marty Bill e Penelope Allen che fa la parte della madre di Whit. E che dire, il titolo del film non si riferisce all'omonimo episodio della guerra in Crimea, bensì a un verso di Rudyard Kipling che recita proprio così: tra la lucidità e la follia c'è solo una sottile linea rossa. Continuiamo con un altro brano, stiamo procedendo a zig zag, uno sì uno no, quindi andiamo ancora dalla sottile linea rossa, sempre Hans Zimmer. Vogliamo cambiare in corsa? Sì. Sit back and relax. Vediamo se ci capiamo meglio. Ok, eccola qua. Sit back and relax, Hans Zimmer, sempre dalla colonna sonora della sottile linea rossa, e questo ci ha portato all'ospite di questa settimana che è nuovamente Maurizio Di Rienzo. Ci sei, Maurizio? Sì, no, ma non, buonasera, ci sono, mi avete con molta malizia, mi avete circuito, posto. Ti abbiamo circuito. Oggi sei tutto il giorno al telefono con Radio Onda Rossa, sei contento? Sì, io preferisco sì le onde al mare calmo, di rosso. Sì, sono tendenzialmente più favorevole al rosso. Dai, yeah. Ma non a quello americano, quello dei repubblicani. Detto ciò, allora Maurizio, abbiamo cominciato con i primi 3 film dall'Arabia Giovane, abbiamo ascoltato un paio di tracce, siamo passati per Il Giorni del Cielo con un altro paio di tracce, tra cui una di Ennio Morricone che ha curato la gran parte della colonna sonora, e siamo arrivati alla sottile linea rossa di un altro grande autore di musiche come Hans Zimmer, che... Hans Zimmer, dal Gladiatore a Interstellar, col quale ha avuto l'ultima nomination all'Oscar, Il Re Leone con cui l'ha vinto l'Oscar, e insomma stiamo attraversando un po' tutta la cinematografia di Malick. Di Malick, che evidentemente si presta magnificamente da una parte alla valorizzazione, secondo me, del tracciato sonoro, e cioè, dall'altra forse lo annulla perché cerca di fare una polifonia di immagini che alle volte si mangia la musica, ma va bene. Infatti, questo poi stavo notando, io sto vedendo un po', chiaramente vedo tutti i film di Terrence Malick, rispetto ai primi che venivano fatti a distanza di diversi anni l'uno dall'altro, sì, ultimamente sì, la produzione si è accelerata e sì, va sempre di più orientandosi verso una maestosità dell'immagine. Stavamo presentando l'altra settimana con la distributrice del film di quello che è stato in sala in questi giorni, sì, che parlava del fatto che di questo film non esistesse una sceneggiatura, no, gli attori sono andati, si vedeva delle ville hollywoodiane in cui Terrence Malick voleva far capire di non essere mai stato invitato e quindi per vendetta le ha usate grazie alla peripezia del grandissimo Ethan Hawke e il suo Ethan Hawke, confondo sempre, volevo dire non è Ethan Hawke, adesso ci arriviamo, è Christian Bale, esatto, e sa per quale motivo li accoppia, perché entrambi hanno cominciato giovanissimi, uno con Spielberg e l'altro con l'attimo Fugger, quindi evidentemente li confondevo anche fisionomicamente, mea culpa. No, probabilmente sì, è vero che non c'era un percorso. E cos'altro dicevate? Come circostanziavate questa drammaturgia del cavaliere errante? Guarda, più che altro ne parlavamo come di un'esperienza visiva, ecco. Ecco, beh, l'esperienza visiva, certamente, anche quella che si trova alla fermata del punto. Esatto. Io dissacro per dire che semplicemente dal 2011 avevo fatto una rapidamente locale, ad oggi ne abbiamo 4, forse 5 di film, perché la nuova linea appunto rossa, vedi che torna il rosso, si è aperta con quel capolavoro, perché tale era La sottile linea rossa, sì, un altro capitolo sulla assurdità della guerra e anche sul destino dell'umanità nel procurarsene una dietro l'altra e via dicendo. Detto questo, poi si è cominciato con Nuovo Mondo, inizia il rapporto con alcuni attori che girano, no, in questi film, sì, a sì, cominciare dalla sua musa Cate Blanchett, per carità, assolutamente condivisibile, non c'è, illumina l'illuminazione di Terrence Malick, colora le musiche, quello che vogliamo, anche per 3 secondi, non si discute. Però dal Nuovo Mondo del 2005 in poi, ecco che poi dal 2011 guardavo 4 film, ce n'è uno e mezzo in arrivo, diciamo, uno che mi pare stia girando e un altro in preparazione, via via. E allora io mi faccio la domanda, più che dare una risposta, una domanda in latino, ad quid, cioè in che senso, se si tratta di uno sfogo di un autore che sicuramente è diventato mitico proprio per la sua assenza, ritrosia, sì, entra a Cannes, sì, non lo vedi, sta in ultima fila, non fa le conferenze stampa, al confronto Woody Allen è uno che va a tutti i parti del mondo e Marlon Brando ritirava gli Oscar al confronto, cioè per dire. Sì, quindi, è difficile anche trovarne foto in rete, per no, esempio. Esatto, io assolutamente, è un po' l'Elena Ferrante di Hollywood, ti controllo, cioè mi sembra. Detto questo, quando si arriva a fare un film come Voyage, en français, of Time, che è stato in concorso a Venezia, successivo a questo Night of Cups, parabola di uno sceneggiatore in crisi, con le sue ex, i suoi parti, i suoi amici, la spiaggia e quant'altro di magnifico, di opulento e di bizzarro c'è in California, non solo in California, ecco, con un viaggio del tempo, non sembra una sorta di, come dire, Bignami di National Geographic dell'ennesima potenza, quel film lì? Sì. Che cosa ci vuole raccontare? Cose, sì, che già sappiamo e che in cui non crediamo? La Genesi, la nascita dell'universo, un Dio, una luce, eccetera? Lo chiedo a voi. Che cosa ne pensate di Viaggio del Tempo e della musica di Viaggio del Tempo, che è stata veramente noiosissima? Sì, no, guarda, io gli ultimi film me li sono, come dicevo prima, goduti semplicemente dal punto di vista di una cinematografia, perché tale è la potenza dell'immagine, certo, su grande, certo, schermo, forse unica rispetto ai grandi autori contemporanei, perché c'è veramente una cura dello sguardo che lascia lascia stupefatti. Dopodiché, no, sì, non c'è un film. No, ma sull'ultimo soprattutto devo dire, mi dispiace che Barbera l'abbia messo in concorso, perché francamente non aggiunge nulla al mistero e alle già risposte avute e non avute sul suo cinema, all'impressione che abbiamo avuto, perché ripeto, è superato da qualunque altro tipo di effetto digitale sì. che è stato visto anche in canali tematici o in altri film, perché no, anche di fantascienza, e non soltanto in quelli, mentre Tree of Life e To the Wonder appartengono a un bel binomio, sicuramente opinabile sotto certi aspetti, ma con una robustezza anche di fluidità quasi vischiosa di trama, di personaggi che si incrociano come in una sorta di balletto, alle volte onirico, alle volte sottaciuto, con le battute dette fuori campo che ritornano. Insomma, The Tree of Life 2011 e To the Wonder secondo me hanno dei bellissimi titoli e sono anche due film molto sinceri e giusti. Sugli ultimi due devo avere molti molti dubbi. Non so cosa pensiate voi della musica, perché su questo lascio a voi esperti, ho dei ricordi sicuramente dell'albero della vita, Tree of Life e To the Wonder, insomma, che cosa pensate? E non ricordo bene chi è che l'ha fatta di tutti e due i film. Allora, ce lo dice adesso Ottavia, allora, perché per esempio anche dal punto di vista musicale è cambiato molto nel corso dei decenni, rispetto a quei capolavori che lo hanno imposto all'attenzione generale, dalla Rabbia Giovane passando per I Giorni del Cielo, è andato sempre di più abituando l'orecchio dello spettatore alla musica classica. Per questo è stato un passaggio importante anche nel suo cinema, è passato dai grandi autori. Dopo gli esordi è passato dai grandi compositori, certo, esatto, che, e poi è passato proprio ai classici della musica classica, la nostra carissima esperta che ci dice. Senti Maurizio, no, ti volevo dire, prima ti dico una cosa e poi dopo ti dico gli autori delle colonne sonore che sono famosissimi. No, ma più che a me diciamo lo sto dimmi. Ascolta, no, allora prima ho detto io detesto andare al cinema col dizionario, no, col vocabolario. No. Malik sinceramente non è un regista che mi interessa, ma pensando, io sono una maniaca, vedo tutti gli articoli di giornale sempre, quelli che mi interessano, no? E guardando preparando la trasmissione ho trovato un articoletto uscito su Internazionale con una bella critica a Voyage of the Time, l'ho ricopiato sui miei foglietti di quale testata era, scusami, ti ricordi di quale testata fosse, te lo ricordi? Di Internazionale. All'Internazionale, il mese settimanale. Certo. Ritaglio, scrivo il titolo del giornale da cui ho ritagliato la data, sono una maniaca. E l'ho trovato. E c'è questo simpatico giornalista che dice: proprio per sposare la tua idea su questo documentario, Voyage of Time racconta 14 miliardi di anni in 90 minuti partendo dal Big Bang, ed è una specie di poema scientifico filosofico dai risvolti mistici e perfino mitici. La voce narrante di Kate Blanchett è suggestiva quanto basta, ma nulla di più. E poi fa tutta una serie di considerazioni, certo. Stroncandolo. Ma mi sembra comunque corretto l'inizio, perché lo descrive con un filo di critica, ma nello stesso tempo quando scegli gli aggettivi, anche un bambino che sceglie gli aggettivi fa critica, quando parla con la mamma, quindi confessiamo il mausoleo della critica, tutti facciamo però critica. Però spezzo una lancia a favore di Malik, che è un grande comunque, perché mi piace molto questa cosa, questo creare questi film con delle maestranze straordinarie. Non so, mi viene in mente che lui ha avuto anche, come, siccome non era contento durante Tree of Life della grafica, ha ingaggiato Douglas Trumbull, che è il responsabile degli effetti speciali di 2001 Odissea nello spazio. E poi insomma tutti questi maestri, questi artigiani, direttori della fotografia straordinari, ecco, quindi sono delle vere e proprie opere d'arte, poi alla fine questi film, che vanno guardati come tali, certamente non come dei film che ti rimangono. Io sono d'accordo. Ecco. Tu vedi dei compartimenti stagni, non so Federico come la pensa, perché dalla tua versione passi a una considerazione giusta. Quello che mi chiedo io è se non il fatto che mi chiedo, faccio questa domanda: il mito, i due film in 5 anni, 73, 78 e poi nulla, altri 10 e poi via via quello, il mito non si mangia un po' la possibilità genuina per tutti, spettatori comuni, amici, tecnici e critici, di giudicare, di sentire, di percepire? Perché probabilmente quello che, del viaggio del tempo, quello che si dice è vero, ma anche Goffrey Reggio, allora, il primo grande negli anni 80 con la trilogia con gli anni scarsi, poi si scende nel turpiloquio, ma quello è il linguaggio Inuit delle popolazioni del nord del mondo, dell'Artico. poi anni fa con Ragazzi e non mi ricordo il terzo, e altri, anche Herzog, voglio dire, sì. L'estremo lo puoi raccontare in diversa maniera, però tutto sommato non devi avere la presunzione di far pensare di far vedere di qualcosa di inedito, per cui io mi fermo sì. a The Wonder e Tree of Life e spero che avvicinandosi ai lui c'ha adesso del 43, mi pare che a 73 anni, avvicinandosi a un'età veramente ottuagenaria, non sforni un piccolo grandissimo film, piccolo ma grandissimo. E invece tornando alle due colonne sonore che mi chiedevi, The Tree of Life, le musiche sono di Alexander Desplat, che ha curato anche un paio di colonne sonore per Sorrentino. E poi invece di Night of Cups non ci siamo arrivati. Me lo chiedevi prima. Eccolo, sì, però no. No. No, no. Forse To the Wonder mi potevi lì quel film con Ben Affleck, probabilmente di To the Wonder potevate, volevo sapere io chi fosse, mi pare che fosse una specie di conosciuto con un cognome famoso di rockstar, aiutatemi. To the Wonder volevi sapere tu? Sì, To the Wonder, perché io ricordo che era un cognome equivoco che poteva far pensare a un grande, ma non lo era, porca miseria. Sembrava uno degli Who. Aveva il cognome di Townsend. Townsend. Esatto. Però non lo ritrovo nei miei appunti. Non lo ritrovo nei suoi appunti. Ho scritto 56 pagine oggi. Ecco qua, allora ci sono arrivato per memoria, ma non so chi. Vabbè, comunque resta il fatto che è un regista con il quale molti attori amano evidentemente lavorare, non ne conosciamo il cachet, però probabilmente si tratta di film che fanno il giro dei grandi feste ed è un fiore all'occhiello. E adesso andando a riguardare un attimo Hanan Townsend, esatto, okay. Questo qui, andando a guardare adesso To the Wonder, Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams, Javier Bardem, e poi una presenza che fu molto strombazzata di Romina Mondello. Secondo me era perché Mondello era in una spiaggia di Palermo, si facevano scendere sulla spiaggia e hanno preso lei. Maurizio, noi ti abbracciamo e magari ci sentiremo anche prossimamente, dai. Sicuramente quando farete una retrospettiva ideale delle musiche dei film di Neri Parenti, io ci sono. Tu ci sarai. Un abbraccio, ciao Maurizio. Ciao Maurizio, grazie. E di che, a voi a tutti, ciao. Allora passiamo a un altro della sortita di Vesta Rossa. No, non mi ricordo che andiamo ho avanti, messo. Andiamo avanti. Listen to the wind, you can hear me again. taglia. No, per carità, è bellissima voce. Sì, sì, no, molto bella, molto bella. Bravi tutti. Sì, sì, però tuttavia, questo pezzo si chiama Listen to the Wind. Lei è una cantante neozelandese, ma vi voglio raccontare, questo è tratto dal film The New World, Il Nuovo Mondo, sempre di Malik. Le musiche sono di James Horner, altro genio. Delle colonne sonore ne ha composte, guarda lì, ma, cioè, tipo credo più di 100. Comunque direttore, anche direttore d'orchestra, e in un'intervista Horner ha detto che Malik ha amato la sua musica ma non aveva idea di che cosa farci. Ha dichiarato che lavorare con Malik è stata l'esperienza più deludente che abbia mai avuto con un uomo, e non ha mai sentito così delusione da un regista nella sua vita. Questo perché? Perché a causa dell'abitudine di Malik di tagliare e rifare, fare un montaggio molto caotico, lo fa sempre durante tutti i suoi film, ma in questo caso ha tagliato tutta la musica scritta da James Horner, che non entrò appunto mai nel montaggio se non qualche piccolo frammento, ecco. E in un certo senso Malik per questo film ha cucito, ha fatto il contrario di quello che si fa di solito, no? Di solito si fa un film e poi si compone la colonna sonora, invece lui ha fatto comporre la colonna sonora e poi l'ha tagliata e non c'è più. Sì. E invece il nostro James Horner è tanto bravo, ha collaborato con Steven Spielberg, ha composto, ecco, vedi, l'avevo pure scritto, musiche per più di 100 film, Avatar, Titanic. Insomma, abbiamo una decina di minuti e abbiamo ancora un paio di film, se non sbaglio, Tree of Life to the tre film, quindi dobbiamo anche sbrigarci. Tree of Life, abbiamo due possibilità: o Lacrimosa, che è classica, però mi dicevi che c'è qualcosa da dire. Quanto o dura? Altrimenti Windpipes di Michael Byrd. Quanto dura adesso non mi chiedi? Adesso ce le portiamo un attimo qui e in diretta scegliamo insieme a chi ci ascolta. Allora durano una 3 minuti e 21 e l'altra 3 minuti e 55. Quella più corta. La più corta, che è proprio la Poi magari lacrimosa. La sfumiamo anche. La sfumiamo anche, dai. Come Beh, dobbiamo un po' immaginarci le immagini di Tree of Life con questa musica, il soprano Elzbieta Tovarnica, Lacrimosa. Sì, dico solo una cosa di questo film, che è stato proiettato alla Cineteca di Bologna e per errore è stato invertito il primo tempo con il secondo e viceversa. Nessuno se ne è accorto. Nessuno degli spettatori se ne è accorto. E siamo all'ultimo film, poi vediamo se riusciamo a mettere una coda. Questa la volevi tanto te, e Biosphere, giusto? Sì, da Night. Aspetta, c'è pure. Prima c'è To the Wonder. To the Wonder. Ce la facciamo a mettere tutte e due? E ci proviamo, via. Allora andiamo a sfumare, anche perché arriva una notizia positiva rispetto ai fatti della Magliana di qualche sabato fa, un paio di sabati fa. La notizia buona ce l'ha data ora l'avvocato Crisci, e cioè il Tribunale della Libertà ha accolto la richiesta di arresti domiciliari per Felice, uno degli arrestati. Allora, dicevamo, questa era dalla colonna sonora di To the Wonder, To the Wonder 2012, Now St. Vincent, sì. Questo il lei Annie Clark con questo pseudonimo, una polistrumentista dell'Illinois. Andiamo avanti velocemente, io direi andiamo ai saluti, sì, e poi ci lasciamo con il brano a cui tenevi, cioè Biosphere. Certo, ricordiamo tutti i dati per sottoscrivere alla radio: conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voci 56 00185, Roma. Potete anche dare un contributo attraverso il sito della radio cliccando sul pulsante sostieni. Un saluto va da queste voci a tutte e tutti coloro sono privati della loro libertà personale. Ci sentiamo giovedì prossimo, no? Non lo so. No, è il 2. Non ci sono. Tu non ci sei. Non ci sono, giovedì prossimo saltiamo, quello successivo però invece ci siamo di nuovo. Allora, ci lasciamo con Biosphere per la colonna sonora dell'ultimo film, quello che è stato nei giorni scorsi, è arrivato in sala, Night of Cups, di cui abbiamo anche un po' parlato con Maurizio Di Renzio. Patashnik lo firma. No, è il Biosphere, è il gruppo. Patashnik è il titolo del brano. Okay. Ci salutiamo con questo fra due giovedì, a questo punto. Sì, fra due giovedì, che tra l'altro non è un gruppo, è uno solo, Biosphere. Ok. Done.